America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. These economies, including the United States, have the capacity to do things now to make growth stronger, both to offset some of the pressures we're facing from Europe, but also because the world as a whole, even when Europe stabilizes, you're going to see growth damaged by the magnitude of the crisis so far. Il segretario di Stato Tim Geithner sarà domani a Milano per incontrare il presidente del Consiglio Mario Monti. E ci sono un po' di anticipazioni qui a New York su questa visita. Geithner vuole naturalmente capire quali sono i punti centrali della manovra del nostro governo, soprattutto vuole capire che tipo di impostazione di lavoro si potrà fare con l'Italia, ma anche con gli altri paesi europei, perché non dimentichiamolo, per gli Stati Uniti gli sviluppi che ci saranno in Europa sul fronte dell'Eurozona sono chiave, sono cruciali per lo sviluppo stesso dell'economia americana. Abbiamo visto nei giorni scorsi un forte miglioramento del tasso di occupazione degli Stati Uniti, siamo scesi sotto il 9% all'8,6%, la crescita è rimasta negli ultimi trimestri intorno al 2-2,5%, c'è timore però che la crisi europea possa portare giù anche l'economia americana, con chiaramente implicazioni per le elezioni americane. Ho qui con me in studio Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, che ha fatto un giro in America e dunque non soltanto ha colto un po' il polso della posizione americana vis-à-vis l'Europa e vis-à-vis l'Italia, ma anche già un po' di reazioni sul piano varato ieri. Buongiorno, dottor Micossi. Buongiorno. Dunque, cominciamo dall'America. C'è un posizionamento preoccupato. Ha ragione Geithner a fare questo viaggio in Europa per capire quel che succede dell'economia europea in funzione dell'economia americana? C'è una sensibilità acutissima agli sviluppi della crisi europea. C'è qualcuno che pensa che l'eurozona sia destinata a rompersi. I super pessimisti. C'è qualcuno che pensa che si può salvare, ma bisogna superare divisioni politiche che ancora impediscono un accordo adeguato. E poi c'è perplessità sul fatto che gli europei sembrano guardare da tutte le parti alla ricerca di risorse, mentre l'opinione generale è che l'Europa abbia tutte le risorse necessarie per salvarsi, ma e non si capisce bene perché voglia i soldi degli altri, il Fondo Monetario in particolare. E infine c'è una sensibilità acutissima al problema italiano. Mai da anni ho trovato un interesse così acuto alla situazione dell'Italia. C'è molto rispetto per il nuovo governo, ma anche molta aspettativa sulle misure che sono annunciate oggi. Ecco, cominciamo allora dal fatto che l'Europa si dovrebbe autofinanziare, ma non lo sanno che ci sono dei mercati che in qualche modo stanno lì, come la spada di Damocle, fanno salire i tassi, gli spread, fanno saltare tutti i modelli di sviluppo? Dobbiamo intenderci, se l'Europa è salvabile vuol dire quasi assiomaticamente che questa è una crisi di liquidità, e che nasce, se è una crisi di liquidità, dall'indisponibilità degli europei a erigere una barriera di liquidità con i propri fondi della Banca Centrale, del Fondo Salva Stato, a tutela dell'euro e dei debiti sovrani. Ho sentito che ci sono, soprattutto qua in America, un po' di indiscrezioni di rimbalzo, ovviamente, dall'Europa. Io l'ho sentito dal Fondo Monetario Internazionale, per cui un piano sta cominciando a prendere forma, la Merkel potrebbe essere pronta a cedere e comincia a prendere corpo un'ipotesi di una banca centrale europea come prestatore di ultima istanza, il Fondo Monetario Internazionale potrebbe ricevere quattrini dal G20, insomma c'è un'architettura a livello europeo che sta prendendo corpo, lo condivide? Attenzione, la verità è che dobbiamo stare molto cauti ad aspettarci troppo. Siamo ancora fermi al blocco fondamentale. La Merkel chiede garanzie fortissime sulla stabilità dei bilanci pubblici e delle politiche finanziarie dei Paesi membri, dell'Italia in primo luogo, per allentare la sua presa sulla BCE e lasciarla intervenire più largamente. Se non si sblocca questo impedimento, noi rischiamo di avere un vertice che sanziona la dissoluzione dell'euro. Scusi, dottor Micossi, io la sento molto cauto, molto prudente, molto così, insomma, realista, ma voglio dire, c'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri ed è stato varato un piano piuttosto importante, ma non crede che la Merkel possa essere soddisfatta di questo piano? Ogni riunione del Consiglio europeo, il mercato aspettava quello che lei descrive e che non è venuto. E a ogni riunione la Merkel si è presentato chiedendo di stringere le viti ancora di più sul Paesi membri, sostanzialmente perché l'opinione pubblica interna non la sostiene nell'idea di offrire anche un sostegno di liquidità ai debitori sovrani. Ecco, però, scusi, facciamo un passo indietro. Qui abbiamo un piano che aumenta l'IRPEF al 46%, porta l'età pensionabile a 66 per gli uomini, 63 per le donne. Ci sono comunque delle imposte di natura patrimoniale. Insomma, è una stretta fortissima. È molto importante. A quanto comprendo, il professor Monti ha fatto quel che i partner europei si aspettavano. Lo ha fatto con la severità e con la determinazione necessarie, anche se mancano alcune misure. Bisogna, il professor Monti partirà praticamente subito dopo per gli incontri europei, ha questa volta delle carte importanti da offrire alla signora Merkel. Bisogna che la signora Merkel sappia che o si contenta o viene giù la casa. Ecco, o si contenta o viene giù la casa. Che ruolo può giocare il segretario al tesoro Tim Geithner? Come immagina un incontro tra Geithner e Monti? Secondo me Geithner viene anzitutto per dare il segno dell'importanza che ha assunto in questa circostanza il comportamento dell'Italia, viene a sottolinearlo. In secondo luogo, secondo me, vedendo le misure, viene per approvarle, perché anche lui sta chiedendo da tempo alla signora Merkel e all'Eurozona, ai leader dell'Eurozona, di adottare misure adeguate di sostegno della liquidità del debito sovrano dei paesi dell'Eurozona, e andranno insieme a Bruxelles per portare lo stesso messaggio. Ecco, i due arriveranno insieme a Bruxelles con lo stesso messaggio, però attenzione, perché finora noi abbiamo visto un atteggiamento da parte del nostro governo molto rigido, molto severo, molto duro, giustamente severo. Però non ci sono ancora una serie di misure che l'America si aspetta. Non dimentichiamo che l'America chiede prima di tutto crescita e sviluppo e poi austerità. Non è un caso che gli Stati Uniti d'America hanno le misure di austerità a partire dal 2013. Però il 2012 è l'anno chiave per tenere, qualche risultato lo vedono. Ecco, qual è l'altra parte dell'equazione? Crescita, sviluppo, togliere queste regole che soffocano l'Italia, che impediscono ai giovani di affacciarsi al mercato del lavoro. Arriveranno? Ci sono? Cosa suggerisce? Ci sono delle misure significative, come l'alleggerimento, la deducibilità della quota dell'IRAP sul costo del lavoro, la famosa ACE, cioè la deducibilità degli incrementi di capitale delle aziende ai fini dell'imposta IRES sul reddito delle imprese. Queste sono misure importanti. Sappiamo che non abbiamo ancora le misure sul mercato del lavoro. L'unificazione del mercato del lavoro con le misure di sostegno generalizzato della disoccupazione e la flessibilità all'uscita. Questo non c'è ancora e i partner ci chiederanno dove è finita questa parte della misura. E poi io non vedo ancora le misure di apertura delle infrastrutture, delle grandi infrastrutture di comunicazione, trasporto ed energetiche, senza le quali un forte rimbalzo degli investimenti non sono possibili. Che tempi dà al governo Monti per questa seconda tornata di misure? Credo che adesso, fino a Natale, si andrà in Parlamento con queste misure, che credo sono già un piatto piuttosto abbondante per il Parlamento. Secondo me il professor Monti deve dedicarsi alla seconda parte non oltre la prima decade, la prima quindicina di gennaio. Ho già avuto modo di scrivere e di dire in Italia che il tempo è corto e va sfruttato il goodwill, la benevolenza che oggi il Parlamento non può non dare al professor Monti per spingere tutte le misure necessarie. Quindi anche lei sottoscrive quella che è diventata una bandiera non solo del nostro giornale ma così italiana, e cioè il fate presto. Fate presto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, 50 anni dalla formazione del gruppo Doors, su una spiaggia a Venice Beach, California, Los Angeles, 1960. Esce una biografia sulla band. Dedichiamo dunque ai Doors la prima canzone di questa settimana, Baby, Would You Light My Fire? Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.